la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:08 primi in questo preciso secondo in cui ho detto 8, e in diretta da Milano vi saluta un raffreddato. Io chiedo scusa perché oggi avrò la voce ancora più da papera e speriamo di riuscire a evitare rumori impropri. Me ne scuso perché sono raffreddatissimo e i miei figli mi impestano, perché bimbi piccoli è sempre così. Detto tutto questo, grazie dell'ascolto in diretto in podcast, e vi dico subito di che cosa parliamo oggi se volete telefonare. Siate voi siciliani o meno, quindi capite che si appressa il voto e parliamo di Sicilia, visto che ormai mancano pochissimi giorni. Ma la questione è precisa ed è su questo che mi piacerebbe sentirvi. Chiamate l'800240024 per le opinioni, lo sapete, con gli sms 349-238-6666. Non è una trasmissione sulle vostre scelte politiche, né avremo ospiti politici, pieno rispetto della liberissima, come è giusto e ovvio, formazione di ciascuno di voi, delle proprie opinioni politiche, delle scelte che farete nelle urne. No, la questione è quella posta oggi, ed è questa la mia domanda, da uno dei più noti, apprezzati e, per quello che può contare il mio giudizio, anche equilibrati, sia pur puntutissimo, giornalisti che hanno dedicato la propria intera vita professionale ad occuparsi di che cosa? Della mafia. Sto parlando di una delle più grandi firme della stampa di Torino, Francesco Lalicata, che ha appunto dedicato anni di inchieste, libri, eccetera, alla evoluzione nel tempo, negli ultimi decenni, della mafia. E con gli ospiti che avremo tra poco, e spero anche con l'intervento di molti di voi, ci porremmo il problema che lui solleva in questo articolo, di cui vi leggo dei brani. Purtroppo Francesco Lalicata è in una parte della Sicilia in cui, tanto per rimarcare come stiamo messi, il segnale telefonico non ci consente di fare il collegamento con relativa certezza. Ci abbiamo provato, ma sarebbe una cosa, cadrebbe ogni 5 secondi tra distorsioni, e quindi lui si scusa, ma la trasmissione nasceva sul suo pezzo. Quindi io intanto ve ne leggo vaste parti, perché la questione, sintesi estrema, come se fosse un sommario del pezzo: com'è che in questa campagna per la Sicilia la mafia sembra non esistere? Com'è che si parla poco e male, ma comunque di questo se ne è parlato, degli, tra virgolette, impresentabili in tutte le liste, ma sembra quasi che la mafia non c'entri? Come mai, visto che le gestioni degli anni che abbiamo alle spalle, quelle di Lombardo e prima di Lombardo di Mister Vasavasa, lo sapete che nel frattempo è uscito dal carcere, ma che hanno animato prima dell'esperienza della giunta uscente, comunque trasformista anch'essa, una pagina durata anni e anni di vita politica siciliana, in cui gli affari andavano a braccetto ed erano con la politica, perché erano espressione della raccolta dei voti e del trasformismo incredibile all'Assemblea regionale siciliana, perché così è stato negli anni di Cuffaro, negli anni di Lombardo. Come mai la mafia è un non tema nella campagna siciliana? Ecco, io vi leggo intanto che cosa scrive Francesco Lalicata oggi in prima pagina sulla stampa. E dice: neppure la riesumazione dell'inchiesta sulle stragi 92-93 e la conseguente iscrizione per l'ennesima volta sul registro indagati di Berlusconi e dell'Utri hanno saputo riportare in primo piano nel dibattito preelettorale siciliano il tema della mafia e dell'antimafia, che in realtà nelle precedenti tornate da decenni avevano sempre tenuto banco. Pochi e senza verbi commenti a difesa dei due indagati eccellenti, ancora più pallidi gli attacchi ormai considerati troppo usati nel tempo. Anzi, l'opinione generale è, ma questo lo aggiungo io, che in buona sostanza questa riapertura delle indagini su Berlusconi e dell'Utri sia quasi, ne abbiamo parlato stamattina, in termini elettorali ci si attende un favore fatto a Berlusconi. Riprende Lalicata e dice: forse la politica ha scelto di seguire il vecchio detto popolare che predilige il silenzio e la prudenza. La meglio parola è quella che non si dice, in siciliano. E così la dialettica che ha caratterizzato in passato intere campagne elettorali basate sul tema della lotta alla mafia sembra dissolta a favore della battaglia contro i privilegi, sì, contro i vitalizi, sì, tutti i temi privilegiati dai social. Ma la mafia no. Questo fenomeno, continua la Licata, riguarda quasi tutti i candidati tranne uno, naturalmente Claudio Fava, che ha il marchio dell'antimafia, lo porta sulla pelle e nel nome. L'unico scontro vero, infatti, che ha lambito il tema della mafia, si è registrato a Catania, città d'origine di Fava, dove ha sede il quartier generale di Nello Musumeci, il candidato del centrodestra. Fava è andato nel quartiere di San Cristoforo, cuore della mafia etnea, a sfidare direttamente i boss e a denunciare la presenza di candidati impresentabili nella lista di Musumeci, che, dal canto suo, ha minimizzato dicendo di aver appreso dei giornali dell'esistenza di quei nomi e invitando i cittadini a non votarli, aggiungo, è la stessa testuale espressione che ha avuto Berlusconi a Catania, rivolgendosi ai propri elettori: se non vi piacciono questi candidati non li votate. Ma, continua la Licata, fatta eccezione per questo duello, il tema della mafia è rimasto al di fuori dell'agone elettorale. Neppure Gianfranco Cancellieri, il candidato grillino e accreditato come possibile vincitore, ha messo le mani e la faccia nello spinoso dibattito della mafia. Eppure il suo movimento ha sempre cavalcato la battaglia contro gli impresentabili. Questa volta la battaglia è stata tenuta a temperatura fredda, bassa, poco aggressiva e gentile, come quella di Fabrizio Micari, il rettore dell'Università di Palermo, il candidato del centro-sinistra, catapultato forse con grave ritardo in una competizione elettorale difficile che pochi avrebbero deciso di affrontare allegramente, in rappresentanza di un partito, il PD, in netta caduta. Tutto ciò che cosa annuncia? Un cambiamento? Si chiede la Licata. E di che tipo? Significa la fine di un sistema, di un gruppo di potere che per anni ha fatto il bello e il cattivo tempo? Ma le rivoluzioni non sono fenomeni adatti alla latitudine siciliana. È vero che la mafia è in crisi e non esercita più quel controllo capillare di una volta, ma non sono i boss di quartiere a fare la politica e a dettare le agende. Il gruppo di potere preesistente, e qui la Licata sottolinea, preciso come da sempre, non si parla di mafia militare, ma di potere politico ed economico, non si dissolve dall'oggi al domani. I big di prima, i Lombardo, i Cuffaro, i Micciché ed altri, stanno sempre lì, un po' dietro le quinte, come si conviene ai pupari di sempre, a fare, a disfare, alleanze, a promettere affari in cambio di appoggi elettorali, a scegliere gruppi di candidati in liste trasversali. Certo, ci sono anche facce nuove, ma bisognerà aspettare qualche tempo prima di poter escludere che anche questi non abbiano alle spalle i loro pupari, forse meno conosciute dei Cuffaro o dei Lombardo, ma pur sempre pupari. Di fatto, però, il tema è come se fosse scomparso. Ecco, a me sembra una delle letture più profonde che io abbia letto di questa campagna elettorale siciliana, a dire la verità. E allora, per parlarne, con noi intanto due ospiti: il fondatore e direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Salute a voi. E Francesco Cancellato, direttore dell'Inchiesta. Sul sito dell'Inchiesta trovate una nota vergata da Francesco Cancellato oggi, molto tosta per così dire. Il titolo è: la Sicilia, il fallimento politico di Renzi, la prova soprattutto che l'Italia è senza speranza. Grazie Francesco di essere con noi. Buongiorno. Allora, Tregua, la Licata ha torto o ha ragione? E in entrambi i casi, lei che pensa? Guarda, la mafia ha cambiato veste, ormai è noto, tutti lo dicono, non è più quella tradizionale, quella della coppola. La mafia ormai è dentro i gangli dell'economia e quindi è a braccetto con la pubblica amministrazione, con i politici, e conseguentemente la corruzione dilaga ed è incontenibile, proprio perché c'è una debolezza fondamentale del ceto politico e del ceto burocratico. Se loro fossero forti, corruzione non ce ne sarebbe. Quindi la questione della mafia, secondo me, è andata un po' in sottotono, non tanto perché è diminuita, ma perché ormai si sente poco e si vede poco. La questione perciò è scegliere un ceto politico che sia in condizione di avere la capacità di ribaltare questa situazione, perché è vero che non si parla della mafia o se ne parla poco, però si parla poco anche della situazione di disastroso in cui si trova la Sicilia, dopo tre presidenti, uno che è stato in carcere per 7 anni, uno che è sotto processo e il terzo che è assolutamente inconcludente. È vero che è stato portato dal Partito Democratico, ma devo ricordare che è stato portato dal Partito Democratico che in Sicilia è dominato da Bersaniani e da Legnani. però Renzi ha la responsabilità oggettiva di non, avendo, di non averlo mandato a casa. Crocetta, ovviamente, per chi non avesse capito quest'ultimo. Rosario Crocetta, nome e cognome, perché non bisogna dimenticare nulla. La Sicilia è in una condizione disastrosa, pur avendo delle ricchezze incommensurabili, ed è questo il tema della prossima campagna, di domenica prossima, eleggere qualcuno che sia in condizione di utilizzare al meglio queste risorse immense. Insomma, la Sicilia è stata per 7 giorni durante il G7 in centro al mondo, 1 miliardo di persone hanno visto Taormina. E com'è possibile che Taormina a novembre chiude i battenti? È una cosa incomprensibile. Nelle Baleari, nelle Canarie, ci sono turisti tutto l'anno, in Sicilia 14 milioni come Malta, ma è una cosa inaccettabile, quindi è un ceto politico che non ha funzionato e quindi bisogna tentare di scegliere qualcuno che sia non solo onesto, come certamente sono i giovani e bravi grillini, ma anche capace, perché la Sicilia è una grande azienda immensa con 25.000 chilometri quadrati di superficie e 5 milioni di abitanti, che gestisce 16 miliardi di budget, e il suo bilancio è 16 miliardi. E la cosa più grave è che ci sono ben 17,6 miliardi a disposizione non spesi, che gridano vendetta. Altro che, qui ci sono 700-800.000 poveri, qua ci sono, c'è gente che non ha, che non trova lavoro, la disoccupazione è il doppio della media nazionale, con 17 miliardi e 6 da spendere. E perché non si spendono? Questa è la domanda che si dovrebbero fare anche i giornalisti, che dovrebbero fare a tutto questo ceto politico. Perché non si spendono questi soldi? Perché c'è una burocrazia regionale vacata, 15-16 mila persone, 2.000 dirigenti. Ma signori, in Lombardia ci sono 3.000 dipendenti, qui ce ne sono 15.000, non va bene. Il corpo dei forestali è stato incorporato nei carabinieri, come si sa, in Sicilia è rimasto regionale. 1.200-1.300 persone solo del corpo forestale siciliano e altri 23.000 operai forestali, uno per chilometro quadrato, e qui scoppiano gli incendi. Ma è una cosa incomprensibile, o perlomeno si comprende perfettamente. E poi lasciatemelo dire. Ora che gli incendi sono scoppiati nel Piemonte, in Valle d'Aosta, anche lì stanno sperimentando la mafia, no, sulla loro soprattutto carne. Anche lì, è proprio, io l'ho rilanciato l'altro ieri, i carabinieri forestali trovano le tracce degli inneschi dolosi in Val di Susa, e i due sindaci della Val di Susa sono oggetto di particolare tutela, perché sono oggetto di una sistematica campagna di intimidazione telefonica alle loro persone e alla loro vita. Ecco, quindi non sono fenomeni solo siciliani, quindi apprendiamo, ma il problema è che la Sicilia è un'anomalia da tutti i punti di vista. Se si sommano i dirigenti di prima fascia della regione siciliana e quelle delle sue partecipate controllate, Sole 24 Ore lo ha rilanciato e io stesso l'ho rilanciato, la somma è pari praticamente a quella di tutte le 15 regioni ordinarie italiane, stiamo parlando dei soli dirigenti. Abbiamo avuto ospite Pietrangelo Buttafuoco, che ci ricorda come l'opinione della Corte dei Conti sulla parte patrimoniale del bilancio consolidato della Regione Sicilia, dopo anni di osservazioni, con ogni probabilità a giugno, quindi quando ci sarà la nuova giunta, il nuovo presidente scelto dagli elettori siciliani il 5 novembre, la Corte dei Conti dovrà dire: signori, questo bilancio è falso, e potrebbe scattare il commissariamento, con tutta la delicatezza ovviamente di una regione tutelata dallo statuto che ha rilievo costituzionale, lo statuto speciale della Sicilia, come quello della Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. Pur tuttavia, Francesco, questa analisi fredda, distaccata, amara e abbastanza preoccupata di Francesco Alicata merita, secondo me, da parte di tutti noi una osservazione, perché se le ultime tre presidenze siciliane sono state dominate dal trasversalismo e dagli affari in politica, senza che questo, diciamo, i 7 anni di carcere parlano chiaro, però detto tutto questo, senza che questo sia riconducibile nella prima campagna elettorale fuori da questo tipo di ipoteca, perché abbiamo ospitato in questa settimana molti che dicono: beh, però la caratteristica dei quattro candidati il Grillino, il rettore di Palermo Micari, Fava e Musumeci, e che tutti dicono no, però sono galantuomini, cioè sono estranei alla vecchia logica. Ma detto tutto questo, però, le tracce dei candidati nelle liste che fanno riferimento a questa lunga di storia di potere recente siciliano sono tutte lì. Eppure, mafia, niente. Che pensa Francesco Cancellato? Ma penso che non basti essere galantuomini. Io mi rifaccio alle idee che sono messe in campagna elettorale. Nel momento in cui, e forse questa è la cosa più drammatica di tutta la vicenda, noi abbiamo persone fuori da questo trasversalismo che si candidano a guidare la regione Sicilia, noi assistiamo a una campagna elettorale totalmente surreale per qualità delle proposte, per analisi dei problemi, per soluzione ai medesimi. Io faccio qualche esempio, il direttore se li ricorderà ancora meglio di me, visto che non abbiamo la fortuna, diciamo, di seguire la campagna sul territorio noi qua da Milano, ma mi pare che quando Crocetta abbia nominato una serie di dirigenti, sono stati una ventina di presidenti, amministratori di enti partecipati dalla regione in coda al suo mandato, la cosa sia stata accettata con cavalleria da tutte le forze politiche. Mi sembra che lo stesso sia successo quando è stato dato aumento di 80 euro agli operai forestali e forestali che citava prima il direttore. Anche in questo caso è stato il plauso della CGIL e c'è stata giusto una timida protesta del centrodestra. Quando i grillini hanno sostenuto che l'abusivismo andasse diviso, comunque contestualizzato tra abusivismo di necessità e abusivismo speculativo, quindi facendo dei distinguo anche di cuffariana memoria, diciamo, nel circoscrivere il fenomeno che in Sicilia è assolutamente endemico, tra l'altro non solo in Sicilia, in noi. Quando si tratta di far proposte, ieri è stata una giornata pazzesca, cioè si è sentito Grillo, adesso non ieri, i giorni scorsi, parlare di mafia corrotta dalla finanza cattiva, si è sentito rilanciare l'idea delle 20 ore lavorative settimanali che gridano, diciamo, al più bieco assistenzialismo, si è sentito parlare non far pagare le tasse per 10 anni ai giovani che tornano in Sicilia. Cioè un'analisi come quella che ha fatto il direttore poco fa dei problemi della Sicilia, da questi candidati galantuomini, e sottolineo galantuomini, non si è sentita, o si è sentita pochissimo. Questo secondo me è il grosso problema, è il motivo per cui ho imputato in qualche modo a Renzi, in qualche modo, l'idea che la Sicilia fosse il suo personale fallimento politico. È che se uno vuole cambiare questo paese, vuole cambiare verso, come diceva lui, vuole invertire la rotta, è proprio dalla Sicilia che bisogna partire. E io in 1000 giorni di governo Renzi, sinceramente, la Sicilia l'ho sentita nominare pochissime volte, e vederlo che nemmeno fa tappa sul territorio siciliano col suo treno destinazione Italia, che nell'ultima settimana di campagna elettorale decide di andare da Obama anziché andare sul territorio a dire lui cosa vuole fare della Sicilia, mi fa pensare che tutta questa idea di cambiamento in qualche modo rimanga sulla carta, che come i miei figli, quando gli dici di mettere a posto una stanza e non c'hanno troppa voglia, si mettono a giochicchiare nell'unico punto della stanza in cui è già pulito e non ad affrontare i problemi, nel caso dei miei figli il disordine, nel caso dell'Italia tutte le criticità, le anomalie siciliane che abbiamo raccontato come prima emergenza cruciale di questo paese, perché poi in realtà combattere la mafia è combattere tutte queste cose, combattere l'assistenzialismo endemico, combattere una pubblica amministrazione che è welfare differito sotto mentite spoglie, combattere l'idea che la regione Sicilia sia una regione senza speranza laddove, come giustamente ricordava il direttore, è una regione che è centrale nel Mediterraneo, che è un hub perfetto in un rapporto tra Nord Africa ed Europa, che ha delle risorse turistiche ineguagliabili, dei dati turistici ridicoli, che ha un deficit infrastrutturale rapportato al numero di abitanti e alla quantità di soldi che arrivano nella regione, che fanno parte del bilancio regionale, oggettivamente imbarazzante, da caso di scuola al contrario. A mio avviso, quello che ci dobbiamo dire chiaramente è che se noi riuscissimo a cambiare la Sicilia, probabilmente cambieremmo l'Italia. E la cosa pazzesca, la vera valenza nazionale che ha questa campagna, al di là del fatto che parliamo di 5 milioni di abitanti, che parliamo di un'elezione che avviene a poche settimane ormai, a pochi mesi dall'elezione politica, è proprio questa, che la Sicilia ha una valenza nazionale nella determinare le sorti di questo paese. Perché se noi riuscissimo a partire dalla Sicilia a rimettere in qualche modo il meridione nella condizione di avere uno sviluppo endogeno, di mettere a valore le sue risorse, di mettere a valore le sue enormi potenzialità di capitale umano, noi probabilmente veramente rimetteremmo in circolo nel paese la benzina necessaria per rilanciarlo. Non lo facciamo, ci ritroviamo nella condizione opposta, cioè che i problemi della Sicilia e i problemi del meridione si riverberano anche su quella che noi pensavamo essere la parte sana del paese. Se non combatti la malattia si estende in qualche modo. E a mio avviso queste elezioni sono una gigantesca occasione sprecata, perché davanti non abbiamo Cuffaro e Lombardo, davanti abbiamo dei galantuomini, sottolineo, galantuomini. Ma questo non basta. E io temo anche che conti un'altra cosa. Il travaglio terribile renziano in Sicilia, perché di questo si tratta, visto che il partito in Sicilia in questi anni è stato un pezzo, il PD, non quello renziano, ma il PD è stato, come ricordava Carlo Alberto Tregua, un pezzo del trasversalismo delle giunte, anche precedenti, per così dire, a quelle di Crocetta. Allora, io credo che alla fine, quando c'è una storia pluridecennale di trasversalismo di potere, con candidati scelti con questa logica e presidenti sostenuti da formule politiche che sono costruite sulla rappresentanza di pezzi del potere, tra l'altro c'è stata la polemica molto forte della pezzi della sinistra e anche dei 5 Stelle che in qualche modo era motivata anche su, per esempio, il peso che la Confindustria siciliana aveva nella lunga parte iniziale della giunta Crocetta, prima che iniziassero poi decine e decine di sostituzioni dei componenti della giunta, un vero record durante gli anni di Crocetta. Quindi quando io parlo di potere, parlo dei poteri economici, anche dei poteri delle rappresentanze d'impresa, delle piccole imprese, dei commercianti. Una lunga fase di questo tipo, sono d'accordo con Cancellato, non bastano i quattro candidati galantuomini. Bisogna avere il fegato, la voglia o credere che ne valga la pena di affondare il coltello in tutta questa storia. E io credo che questo coraggio sia mancato. Perché l'opinione evidentemente diffusa è che nel farlo troppo coraggiosamente si metterebbero a rischio troppi consensi. E la stessa spiegazione che io do della frase di Grillo, per esempio, quella specie di nostalgia per la vecchia mafia che aveva un'etica, ma di che cosa parliamo? La mafia scioglieva i bambini nell'acido, cioè di che cosa parliamo? Allora, penso che questa sia la vera risposta, la mia almeno, non la vera risposta, perdonate, la mia risposta personale non è quella vera, la verità, non sono titolare di nessuna verità, ma quando io ho letto Francesco Alicata stamattina mi sono detto, è evidente che nel giudizio di chi ha costruito queste liste, dei quattro leader diversi, aggredire troppo duramente quello che si è visto sotto le tre ultime presidenze, uguale perdere voti, e questa ai miei occhi è, se fosse questa la ragione, credo di sì, ma se fosse vero, per davvero sarebbe una tragedia. Vediamo come voteranno i siciliani però, perché questo significa, sta a loro scegliere che cosa indicare. Però il tono generale di questa campagna elettorale è un po' purtroppo questo. Adesso abbiamo le informazioni sulla borsa, un po' di pubblicità e poi torniamo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. La mafia non spara, non spara più come negli anni brutali, negli anni della Chiesa, Falcone, però negli affari, nelle catene di rappresentanza, nei appalti, nelle costruzioni, nei bandi, nei fondi europei, nella formazione, in tutto questo c'è come, c'è ancora, è cambiata, ma c'è. E però è diventata monopolio delle indagini nella procura, dei giornalisti specializzati, nella campagna per la regionale siciliana non c'è. Si chiede Francesco Alicata una trasformazione? Ma quel che manca è un bilancio delle ultime tre presidenze di potere trasversale in questa campagna elettorale. Sentiamo come la pensano alcuni di voi. Cominciamo con Alberto che ci chiama dalla provincia di Varese. Prego Alberto. Buonasera signor Giannino. Siamo nel 2017 e stiamo ancora parlando di una regione che è in mano praticamente alla mafia. È corretto? In mano mi pare troppo, no? Però certo. Questo, va bene, ecco. Mezza Italia è inquinata dal malaffare. Ma io mi chiedo, le regioni autonome come la Sicilia, per esempio, hanno un motivo di esistere ancora o no? Una duplicazione di un Parlamento siciliano che si sa è pieno di gente di dubbia moralità e qualche galantuomo ci sarà senz'altro. Ma hanno senso ancora? Allora, lei pone una domanda secca. La mia, gli ascoltatori la conosco da anni, io sono convinto che le scelte ordinamentali, l'autonomia speciale a rango costituzionale nel nostro paese, quella scelta fu fatta quella Sicilia addirittura fu fatta prima della stessa Costituzione italiana, per essere chiari, e nasceva dalla convergente paura, dal timore che sia democristiani, comunisti, socialisti, tutti i partiti avevano per le forme che andava assumendo, la presa che stava assumendo, il consenso che si manifestava in grado di ottenere l'indipendentismo siciliano, sia quello armato, perché c'era Levis, sia quello politico. Quel problema lì è l'origine storica dell'autonomia speciale, che viene prima della Costituzione italiana. Quel problema lì, a mio giudizio, è risolto da tempo. E siccome io credo che gli ordinamenti debbano evolvere nel tempo affrontando la realtà del tempo e non siano per sempre, come si dice delle Costituzioni spesso, si sbaglia e quindi la mia risposta è che se devono valere quelle ragioni storiche e basta, è un errore. La stessa cosa la penso per la Valle d'Aosta, per essere chiari, dove ci sono le minoranze linguistiche, cioè la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige, per il Friuli Venezia Giulia, pur non mettendo sullo stesso piano chi ha fatto usi diversi del denaro pubblico. Guardi che io sono sincero però, in Val d'Aosta il problema è addirittura peggiore. Questo, io sono poco popolare in Val d'Aosta, avevano addirittura pensato di querelarmi la regione, però in Val d'Aosta la presa di potere di alcune famiglie e di alcuni ambienti di affari è ferrea da decenni, e quindi anche la Valle d'Aosta, non è che siccome sta a nord non c'è il problema, è piccola, ma insomma un sistema asfittico dominato da questioni di potere trasversale anche lì, e a maggior ragione io penso che si debbano evolvere, e io sarei per il riconoscimento anche di altre autonomie, però la politica italiana non lo so se farà mai questo passo, quindi nel frattempo questo statuto speciale siciliano resta, ma poi sentiremo i nostri ospiti se pensano come me o legittimamente pensano invece che sia un falso problema l'autonomia speciale siciliana. Per me è stato uno scudo di dilapidazioni, ecco, lo dico sinceramente, ormai da decenni. Altrove non è stato così, quindi non generalizzo, però io ho un'idea chiara, se servirebbe come rimetterci le mani. Sentiamo come la pensa Andrea che ci chiama dalla provincia di Perugia. Andrea. Sì, buongiorno. Tanto Pietrangelo Buttafuoco, che è sicuramente siciliano, nell'autonomia siciliana avete uno dei più grandi mali, no? nel suo ultimo libro. No, volevo dire soltanto questo: avete provato mai a fare impresa in Sicilia? Basta questo. Io lavoro per fondi internazionali, della Sicilia non ne voglio sentire parlare nessuno. Sono tre le regioni di cui non voglio sentir parlare: Campania, Calabria e Sicilia. Ora, sarà una prevenzione, sarà un partito preso, sarà il fatto che quando si entra in quei territori si respira il controllo del territorio da parte di qualcos'altro che non è lo Stato? Allora, questo è il problema, se no ci nascondiamo dietro un dito, se no continuiamo a dire che la responsabilità è di Crocetta, ma certo la responsabilità è di Crocetta come tutti gli altri che hanno pensato di fare assistenza pubblica assumendo i forestali in Sicilia, quindi hanno, come dire, ha dato il salario minimo garantito attraverso l'assunzione della Guardia Forestale. Allora, però, il problema è impresa. Lei pensa che se noi due andiamo insieme e chiediamo il permesso di fare una spiaggia attrezzata in Sicilia qualcuno ce lo dà? Le rispondo subito, no. Appunto, allora, questo è il problema. O affrontiamo questi problemi, o il resto sono chiacchiere. Quindi il fatto che i candidati non parlano di mafia è gravissimo. In questo ha totalmente ragione Claudio Fava. Dico questo. E io non sono un elettore dell'estrema sinistra. No, ma infatti oggi in questo non stiamo ha ragione parlando. Claudio Fava. Tutto qua. Grazie ad Andrea. Ha ragione Claudio Fava, lo chiedo a caro Alberto Tregua. Claudio Fava, quando venivo a trovarmi l'altra volta, mi ha ricordato che 37 anni ha cominciato a lavorare con me e io ho una stima straordinaria per questa persona che ha avuto sempre una grande linearità. Ma qui il punto di domenica non è la linearità di Claudio Fava, la bravura di Micari che è un grande professore, la onestà di Cancelleri, l'integerrima, la posizione integerrima di Musumeci, non è questo. E cosa debbono scegliere i siciliani per affrontare questa crescita che sta arrivando in tutto il paese e che non arriva qua? Io ti ricordo, e tu lo sai meglio di me, in borsa si cerca di comprare qualche azione buona che ha una grande possibilità di crescita e non quelle che sono in alto nella loro valutazione. Ebbene, la Sicilia è un'azione che si dovrebbe comprare perché ha una grande possibilità di crescita, sol che si facciano gli investimenti. Quelle ascoltatore di Perugia dice in Sicilia non ci si può avvicinare per fare investimenti, ha perfettamente ragione, ma non perché c'è la mafia, ma perché c'è una burocrazia che respinge anziché aiutare, perché c'è una classe politica corta, inerte, incapace di vedere il futuro, di progettare. Nessuno ha mai pensato di fare un vero piano aziendale per la Sicilia, un progetto dove si mettono insieme tutti gli asset che ci sono, perché ci sono oltre ai 17,6 miliardi di cui posso fare l'elenco ma non lo faccio per ragione di tempo. E quindi è una questione di scegliere il meno peggio fra l'offerta politica che c'è in questo momento. E allora la prima cosa certamente da fare è andare a votare, perché i siciliani che girano la testa all'altro lato certamente non contribuiscono a ribaltare questa situazione. Qui non si tratta di vedere cosa fare, come fare, eccetera. Qui si tratta di scegliere una classe dirigente la meno quella, insomma, non la migliore, perché insomma in questo momento la meno compromessa, diciamo così. La meno, ma non è tanto compromessa, quella più capace oltre che onesta. Ovviamente onesta deve essere, ma deve essere più capace, deve affidarsi a delle società internazionali che sono in condizione di fare dei progetti efficaci. Deve guarda, io direttore, butto lì una cosa, io ho battuto le mani a Carlo Calenda, l'ho anche personalmente incoraggiato a dire Roma, quando dico Roma, il tessuto economico di Roma, del grande agglomerato urbano della capitale, merita una riflessione, un'iniziativa che se fossi al governo io penserei che è una delle cose fondamentali, perché il problema è analogo a questo siciliano, anche se naturalmente i romani ascolto insorgerebbero, però è analogo. Ecco, e Carlo Calenda l'ha fatto, è la sponda che ha tentato di lanciare con la Raggi, con la diffidenza della Raggi iniziale, però vediamo se poi quel documento, quel confronto che ha a che vedere esattamente su una prospettiva di rilancio del mix di specialità, non solo del turismo, dell'economia, del grande aggregato urbano, quindi siamo a cavallo di tutte le province del Lazio romano, l'iniziativa politica il governo l'ha presa. Per la Sicilia non c'è niente di simile. Per l'equivalente campano c'è stato l'intervento su Bagnoli del governo, che il sindaco De Magistris ha mal sopportato, però anche lì la portata del disastro di quel mega aggregato urbano in termini economici e sociali non è assunta, come non è assunta quella siciliana, come una priorità nazionale. nella quale io vedrei poi un disegno di riequilibrio dell'autonomia, perché secondo me è così che si costruiscono nuovi flussi, consentendo a chi è più bravo e ha mix economici più avanzati di crescere, correre di più nel mondo, generando anche risorse poi al servizio di chi sta peggio. Però questa non è una visione condivisa dalla politica. In questi anni, l'ha detto Francesco Cancellato, in primis i capi dei governi in Sicilia, sì, G7, strepitoso, d'accordo con interventi a tempo tipo l'aliporto, che è da smantellare perché non ha tutti i permessi, però la voglia di dire rimettiamoci in discussione, e se chi lo governa localmente lo prende come un'impropria indebita interferenza, dura polemica politica, perché queste sono priorità nazionali, non sono più solo priorità locali, beh, questo di sicuro non c'è stato. Strade e torniamo. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta la versione di Oscar. Francesco Cancellato, una tua nota di oggi sull'inchiesta, ti rivolge direttamente all'ex presidente del Consiglio e leader del PD, Matteo Renzi. Non era una leadership nordista quella del PD che ha governato l'Italia negli ultimi anni, eppure la voglia di prendere questa come priorità nazionale, ripeto, c'è la Sicilia, ma c'è Napoli, c'è la Calabria, non c'è stata. Certo, la spiegazione è che in Campania, come in Puglia, come in Calabria, le leadership locali del PD sono o deliberatamente distinte dalla linea renziana, perché così è per la Puglia di Emiliano, così è stato per molti tratti con la campagna di De Luca rispetto ai guai del PD a Napoli. Così c'è un fortissimo radicamento territoriale, sì, poi è renziana di nome, ma insomma non è espressione della rottamazione di Renzi la leadership in Calabria, e tantomeno quella in Sicilia. Ecco, questo può essere una spiegazione, ma perché neanche una leadership non nordista, che anzi secondo me ha preso a calci anche i voti del nord nei due referendum lombardi e veneti, lombardo e veneto, perché neanche quella, secondo te, in questi anni ha visto nel sud questa emergenza che ci richiamava caro Alberto Tregua? Io faccio un piccolo inciso. La situazione paradossale è che, come hai giustamente ricordato tu, hai una leadership del PD che prende a calci, diciamo, il nord e ignora il sud. Dall'altra parte è una leadership del centrodestra che promette meno assistenzialismo al nord e più assistenzialismo al sud, che trovo sia una cosa meravigliosa, diciamo. Da un punto di vista, Pirandello avrebbe amato. Diciamo che questa... Berlusconi, un grande classico di Berlusconi, cioè un grande classico da sempre. Quindi. Sì, sì, no. Siamo veramente al 1994 da questo punto di vista. No, sulla questione Renzi, io faccio un piccolo inciso. La riforma del 4 di dicembre, che doveva essere tanto radicale, quella costituzionale, mi spiegate perché, diciamo, ricentralizzava alcune competenze solo per le regioni a statuto ordinario, tenendo fuori, ad esempio, da ogni discussione le competenze delle regioni a statuto speciale, o perché non rimetteva in discussione le regioni a statuto speciale? Guarda, io non l'ho mai capito, perché io penso che sarebbe avvenuto per Renzi un consenso straordinario se lo avesse fatto. Non ho mai capito perché. Noi vediamo di fronte Rajoy. Rajoy ha fatto un'operazione fantastica in Spagna, da un certo punto di vista, da un punto di vista del consenso personale, perché picchiando duro sulla Catalogna si è guadagnato il consenso delle altre regioni delle altre regioni 16 spagnole. Autonomie spagnole. Sì. Quindi, da un certo punto di vista, anche da un punto di vista meramente tattico, è una cosa che secondo me diventa inspiegabile. E quindi io però aggiungo un altro punto, un altro dettaglio, perché qua mettiamo in discussione proprio l'impianto di partito che aveva in testa Renzi, perché nel momento in cui tu vuoi cambiare una regione come la Sicilia, la tua ossessione deve essere quella di creare una classe dirigente forte, di avere un partito radicato, di avere un partito in grado di cambiare, di plasmare la società. Dovresti essere in grado di proporre una classe dirigente nuova attraverso un'azione veramente di ricostituzione civile della classe dirigente. Però parliamoci chiaro, aspetta che ti faccio l'obiezione. Faraone, che per certi versi è stato il sottosegretario alla pubblica istruzione e poi spostato con la nascita del nuovo governo della pubblica istruzione altrove, il giovane Davide Faraone era un, tra virgolette, dal punto di vista dei consensi, del peso dei consensi nella Sicilia occidentale, sul totale della Sicilia, un peso mosca rispetto anche a vecchie figure come insomma, un po' trasversali, un po' troppo trasversali, che piacciono ai miei amici del Foglio, ma non mi hanno mai convinto a me, del PD storico, del PD storico siciliano. Quindi Renzi che avrebbe potuto fare? Io lo dico molto banalmente, il consenso era di Renzi, in qualche modo, poteva spendere personalmente il suo consenso lì. Ecco, piuttosto che a Milano, piuttosto che pulire sul pulito a Milano, esaltando a pie pari ogni successo della giunta Pisapia prima e della giunta Sala dopo, piuttosto che fare di Milano l'epicentro di un nuovo rinascimento italiano, grazie al cavolo direbbe qualcuno, Milano cresce da sola, non c'ha bisogno di aggiustamenti da parte del governo, non ha bisogno della spinta gentile o forte del governo per crescere. Milano va. Il problema è quelle regioni che non vanno se non c'è una presenza forte. A quel punto mi sarei aspettato, ad esempio, che Renzi veramente ricordasse a ogni conferenza stampa, in ogni momento in cui poteva spendere il suo consenso personale, per ricordare che questa era un'emergenza del paese, per richiamare in qualche modo le classi dirigenti territoriali a un cambio, per provare veramente a infondere un po' della sua aura, quando era forte, alle classi dirigenti minoritarie che volevano cambiare le cose in Sicilia. E occasioni ce n'erano. Faccio un esempio molto semplice. Peraltro lo stesso sottosegretario Davide Faraone si è fatto in parte portavoce, anzi, più che in parte portavoce di questa battaglia. I famosi permessi per la 104 nella scuola. A un certo punto la situazione è esplosa ad Agrigento perché, adesso non mi ricordo su quanti insegnanti, se non sbaglio su 180 insegnanti, 80 usufruivano dei permessi ex legge 104 per poter accudire familiari, diciamo, malati, parenti, o disabili, congiunti, sì, malati o disabili. Ecco, una cosa di questo tipo era chiaramente una truffa ai danni dello Stato. Io ho sentito Faraone parlare di questo, io ho sentito i professori di siciliani che non avevano la 104 denunciare questo fenomeno, ho sentito i presidi, l'avessi sentito una volta da parte del Ministro della Pubblica Istruzione o da parte della Presidenza del Consiglio una presa di posizione forte su questa. No, non c'è stata. Per troppi aspetti si continua ad accettare il lento declino della qualità delle istituzioni, dei controlli, del rispetto delle regole. Io mi auguro davvero, come dice Tregua, che i siciliani ce l'abbiano questa possibilità domenica prossima. Io mi interrogo, perché se devo dire la verità, se fossi elettore siciliano non so proprio in quale della lista dei quattro candidati trovare quello scatto di energia e capacità di governo che manca e che sarebbe fondamentale ancora e prima e a fianco dell'onestà. Allora, grazie ai nostri ospiti, domani mattina alle 8:15 con Luca Telese, Avete 4 mattine, e poi pomeriggio qua al Signor di Oscar.